Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 8 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Abbiamo parlato diverse volte nelle puntate scorse di concorsi che in Italia ormai sembra sinonimo come parola di un rischio, di sinonimo di truffa, soprattutto nel mondo universitario. Pare non solo all'università, almeno a giudicare dalle testimonianze che riguardano quello che è successo a Milano lo scorso 19-21 novembre. Concorso per entrare in magistratura, 500 posti, 30.000 le domande, alla fine 5.560 partecipanti, un concorso che a detta di decine, anche centinaia ormai si dovrebbe dire, di testimoni presenti, è stato una farsa. Candidati che avrebbero introdotto codici commentati che sono vietatissimi perché aiutano a svolgere le prove, gente che copiava, qualcuno oggi, continuano le testimonianze su diversi giornali, si parla di chi aveva cellulari, di chi aveva palmari, sul blog sarannomagistrati.it, dove c'è un forum dove si raccolgono tutte le testimonianze, insomma si moltiplicano le denunce a dire anch'io ho visto, è stato uno scandalo, si sa, insomma siamo un po' il paese dei furbi. Certo che sapere che il concorso dove si devono formare le persone che in primo luogo devono far rispettare la legge, e che questo concorso possa essere truccato, c'è davvero da farsi qualche domanda. Il ministro Alfano ha detto: farò una legge, chi verrà espulso e chi viene espulso da un concorso per la magistratura, chi vuole truccare un concorso per magistrati, non potrà mai più rifarlo in vita sua. Il CSM ha aperto un fascicolo, un'inchiesta, ascolterà la commissione lunedì prossimo. Insomma, pare che questa vicenda sia solo destinata a ingigantirsi. Ne vogliamo parlare con Luciano Violante, che saluto, già presidente della Camera, oggi insegna diritto e procedura penale all'Università di Camerino, magistrato. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno Violante. Buongiorno. Eccoci qua. Voglio salutare anche del CSM l'avvocato Vincenzo Siniscalchi, membro della nona commissione, quella che insomma esaminerà la situazione. Benvenuto Siniscalchi. Buongiorno, buongiorno. Così come saluto Francesca, la chiamiamo così, non è il suo vero nome. Francesca era nel famoso, nel famigerato, dovrei dire, padiglione MZ, quello dove pare siano successe le cose più incredibili. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Ci racconterà, buongiorno, la sua testimonianza. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. È davvero possibile che il concorso per entrare in magistratura sia stato una farsa, con gente che copiava, con gente che aveva introdotto codici vietatissimi, che poi spiegheremo cosa significa tra poco? Insomma, non è neanche una procedura semplice, anzi è una procedura molto complessa far entrare un codice vietato. È possibile che da quel concorso debbano uscire i futuri, i nuovi magistrati? Francesca, allora voglio partire da lei. È davvero andata come tante testimonianze stanno raccontando? Lei era lì? Sì, buongiorno. Innanzitutto io mi presento, ho 29 anni e sono una dei 5.600 candidati che hanno partecipato all'ultimo concorso. Guardi, io racconterò la mia esperienza in quanto, come tutti gli altri, il giorno precedente al concorso, all'espletamento del concorso, io, come tutti gli altri candidati, mi sono recata presso la Fiera di Rho a portare i famosi codici, ovvero sia i testi di legge che sono ammessi alla, che i candidati possono consultare durante la prova. Ovviamente non sono ammessi manuali di diritto, non sono ammesse sentenze o altri, diciamo così, appunti personali che potrebbero soltanto aiutare il candidato nello svolgimento del tema il giorno successivo. Quindi la procedura prevede che i candidati portino il materiale il giorno prima. Questo materiale viene visionato davanti al candidato stesso da addetti quali cancellieri, membri della commissione, i quali prendono atto della regolarità di questo materiale e qualora il materiale sia appunto regolare appongono un timbro del Ministero della Giustizia e trattengono il materiale stesso, che poi il candidato troverà il giorno successivo sulla propria postazione con timbrato e con il suo nome. Questo è per quindi, dire insomma che ecco appunto la procedura è regolarizzata ed è sì. anche davvero molto difficile fare entrare un codice, sì, perché ci vuole un timbro dopo che viene visionato, un timbro del Ministero della Giustizia. Sì, e poi il fatto che il materiale venga trattenuto trattenuto lì nella sede del concorso impedisce di portarlo poi il giorno successivo, cioè impedisce eventuali cambi, eccetera. Sì, certo, viene trattenuto e viene fatto trovare sul banco del candidato. Ce n'erano, e invece vi siete accorti, lei come altri, che c'erano codici vietati, vietatissimi? Sì, perché nella fattispecie ovviamente il giorno dei controlli, io sono stata, in quanto il cognome tra la M e la Z, sono stata al controllo il secondo giorno, quindi il martedì. Ovviamente i commissari controllavano in maniera appunto regolare tutti i codici, nel mio caso come nel caso di altri candidati che avevamo dei codici datati, cioè utilizzati per studiare da molto tempo, quindi con sottolineature a matita eccetera eccetera, ci è stato intimato di cancellare le sottolineature addirittura, altrimenti i codici non potevano entrare. Ho fatto questo tra mille polemiche, perché comunque cioè si trattava semplicemente di sottolineature, va bene. Fatto questo, il giorno dopo andiamo a fare il concorso tranquillissimi, perché ovviamente conosciamo benissimo come funziona, sì. Sappiamo benissimo che è sempre stato un concorso serio, non so se dire l'unico concorso serio, ma per quanto ci riguarda, cioè io ne ho fatti anche altri concorsi e anche questo l'avevo già sostenuto, e mi è sempre, cioè, ho avuto sempre una sensazione di sicurezza massima nel fare questo concorso e di certezza della regolarità della procedura. Questa volta invece ha visto persone con codici vietati. Sì, ci siamo a un certo punto, mentre attendevamo che la commissione ci desse la traccia, è successo che moltissimi candidati si sono avvicinati al tavolo della commissione, che ancora però non c'era, per protestare. Un ragazzo ha preso il microfono e ha denunciato le irregolarità che tutti avevano visto sui banchi di molti candidati, codici commentati, addirittura manuali di diritto penale, il Siandacamusco è stato visto, il Bianca che è un manuale di diritto civile. Si è creato quindi questa massa di gente davanti alla commissione nel padiglione MZ, la commissione stava nel retro ovviamente perché stava facendo la traccia e noi stavamo là ancora relativamente, diciamo così, tranquilli, perché aspettavamo una reazione. Dopodiché è stata creata una delegazione di candidati che è stata invitata dalla commissione a conferire con lei sul retro. Questi delegati sono stati accolti e sono tornati da noi dicendoci che la commissione avrebbe messo comunque a verbale quanto era accaduto e avrebbe perciò messo a verbale che gli erano stati portati questi testi non ammessi, timbrati. Sì, insomma, una situazione che poi ci continuerà a raccontare, una situazione palesemente dal suo punto di vista palesemente irregolare, insomma, di codici vietatissimi. Io tra l'altro, visto che su questo blog sarannomagistrati.it, andate a vederlo se vi interessa, perché c'è un forum nel quale ci sono decine e decine di testimonianze analoghe a quella che ci sta facendo Francesca. C'è anche una testimonianza che abbiamo raccolto, nel senso che abbiamo fatto leggere qui in radio, una testimonianza, un post rigorosamente anonimo di una persona che ha ammesso di avere copiato. Io la voglio far ascoltare a tutti voi, perché poi voglio andare dal presidente Violante, da Vincenzo Siniscalchi, perché è abbastanza esemplificativa anche di un modo di ragionare tipicamente italiano. Allora, sentiamo chi c'era e chi ha ammesso di avere copiato, che cosa ha scritto. Ero molto nel pallone, sia per la difficoltà della traccia, sia per lo stress, sia per la rabbia determinata dall'atteggiamento arrogante e corporativo della commissione. Insomma, verso le 15:30, girando lo sguardo sulla mia destra, mi sono accorto che il mio vicino, che tra codici, raccolte di norme e dizionari avrà avuto una quindicina di volumi da consultare, era immerso nella lettura del codice amministrativo annotato con la giurisprudenza, edizione Giuffrè, a cura di Caringella e Garofoli. Stupore massimo. Forse non dovrei raccontarlo, ma a quel punto, vi dico la verità, invece di denunciare la palese violazione di ogni regola concorsuale che si verificava proprio accanto a me, ad una commissione che aveva minacciato e continuava a minacciare di sanzioni i denuncianti invece che i denunciati, un po' per la delusione e la rabbia accumulate nelle ore precedenti, un po' per il sospetto che anche da altre parti della fiera fossero saltate tutte le regole del gioco e che anche altri potessero fruire indisturbati di materiale vietato, un po' per la sensazione che comunque le prove scritte del concorso sarebbero poi state annullate, ho chiesto al mio vicino di poter consultare anch'io il suo codice annotato, regolarmente timbrato. E il mio vicino, con la massima nonchalance, devo riconoscere, con grande cortesia e disponibilità, me lo ha passato per due volte. E la stessa cortesia ha fatto alla ragazza che mi stava davanti, con cui avevo stretto un buon rapporto di simpatia e di condivisione nelle ore precedenti, e che ha scelto di seguire il mio stesso atteggiamento di opportunismo, di autotutela, a seconda dei punti di vista. Se vivessimo in un paese serio e civile, le prove scritte di questo concorso dovrebbero essere annullate e ripetute. Se invece viviamo in una repubblica delle banane, dove illegittimità ed irregolarità così clamorose si verificano persino nella procedura di reclutamento dei magistrati, ci può anche stare che sia io che i miei vicini di banco possiamo avere la possibilità di superare questo concorso farsa, avendo potuto utilizzare materiale che altri concorrenti non hanno potuto adoperare e che altri candidati, al pari di noi, possono aver utilizzato. Allora, Presidente Violante, è opportunismo o autotutela, scrive questo copione, così, copione reo confesso. È opportunismo, autotutela o che cosa? Ma io credo che gli imbrogli ci sono stati, evidente. A questo punto credo che il concorso la deciderà il Ministro, naturalmente, e il Consiglio Superiore della Magistratura. E non ho dubbi che il Ministro Alfano, che è una persona seria, reagirà anche per tutelare la credibilità complessiva dell'istituzione giudiziaria, che non è un patrimonio dei magistrati, ma un patrimonio dei cittadini e del paese. Avere una magistratura credibile vuol dire essere un paese avanzato civilmente. Avere una magistratura i cui filtri di accesso sono corrotti nel modo che si è visto, evidentemente getta un'ombra di discredito non solo sui magistrati, ma sull'intero paese. Quindi io credo che bisogna reagire con molta forza, si vedrà come la mia opinione è che il concorso vada annullato e vadano risarciti i danni naturalmente a chi li ha subiti. Ora tenga presente che come ci ha spiegato la dottoressa che ha parlato prima, quei libri, i manuali, i codici commentati che non dovevano entrare, sono entrati evidentemente per un fatto di corruzione di dipendenti che hanno timbrato codici che non dovevano timbrare. Né si può dire che si sono confusi, perché è sicuro che chiunque ha preso un codice in mano lo sa distinguere da un manuale o da un codice commentato. Quindi credo che debba essere molto rigorosi e molto fermi, anche per dare un segnale, una lezione per il futuro. Cose di questo genere non possono avvenire. Adesso poi andremo da Siniscalchi del CSM. Lei se lo ricorda il suo concorso, Violante? No. Infatti sì, perché allora si faceva molto rapidamente. E qui prima che sapessi il risultato del primo che hai fatto è arrivato il terzo, perché se ne faceva uno all'anno ci vedeva molto tempo. Quindi sì, io lo ricordo bene. No, era molto severo. Dice, secondo lei è anche un po' il segno dei tempi queste... Ma io non voglio fare l'azione di carattere generale. Si è verificato questo fatto per fortuna è stato denunciato in modo molto fermo. Il ministro ha dichiarato che interverrà pesantemente, non c'è solo un problema che riguarda il futuro, cioè impedire a chi ha truffato di entrare in magistratura, va benissimo, ci mancherebbe altro. Bisogna intervenire su quello che è successo adesso, perché c'è un problema, vede, se una persona, siccome poi si entra in un certo numero di posti, non è che entrano tutti quelli che superano il concorso, può accadere che entri qualcuno di quelli che ha truffato, togliendo il posto magari a persone che invece hanno fatto il compito bene e senza trucchi. E quindi io credo che bisogna tener conto di questo problema. Agire molto duramente significa anche salvaguardare anche la credibilità del governo, perché un governo che consente che entri in magistratura persone che hanno fatto questi imbrogli e che ci siano all'interno delle strutture amministrative persone che tollerano questi imbrogli, li hanno favoriti, naturalmente discredita se stesso. No, perché sa, nei post, anche nei forum, circolano anche le altre tendenze di chi dice ma basta fare dei moralismi, a parte che chi passa il concorso scritto poi deve preparare 15 prove orali, poi c'è chi scrive è una guerra, insomma bisogna vincerla in qualche modo. Quasi, nel nostro paese, per questo la chiedevo se era il segno un po' dei tempi. No, ma c'è bisogno di cominciare a ripristinare alcune categorie di etica pubblica, perché altrimenti non usciamo vivi, insomma. Allora, bisogna cominciare a dire con fermezza alcuni no, non si può dire sì a tutto e far passare tutto assolutamente. Questa è un'occasione in cui bisogna dire un no molto fermo. Allora, il CSM ha aperto appunto un fascicolo. Vincenzo Siniscalchi, lei fa parte di quella nona commissione che, insomma, che innanzitutto credo lunedì vedrà la commissione, cioè i membri che facciano parte, sì, esatto, della commissione, sì, esaminatrice. Esatto, io faccio parte anche della nona commissione. Anzitutto vorrei dire che la nona commissione è competente per la nomina della commissione esaminatrice, ha svolto un lavoro molto lungo, molto complesso, si è pervenuto al sorteggio di una serie di magistrati dei vari livelli della magistratura, dalla Corte di Cassazione ai giudici di merito, divisi per aree, sono tutti magistrati che hanno chiesto di far parte a seguito di un interpello della magistratura, così come del CSM, e sono magistrati di assoluta rilevanza anche sul piano morale, oltre sul piano della preparazione. Perché dico questo? Perché sono già pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura delle relazioni, dei rapporti che sono stati fatti dal Presidente della Commissione, che è un magistrato della Corte di Cassazione, sì, che contengono alcuni riferimenti ad episodi, ma anche il riferimento ad una serie di allontanamenti di candidati che avevano violato le disposizioni generali sul possesso di codici o sul possesso di commenti. Sì, perché alcuni sono stati espulsi, ovviamente, sì, 65, candidati. Ecco, 65, 65 per la però verità, pare... 65. Prego. Pare che dalle testimonianze, almeno raccolte sui forum, fosse molto più vasta, insomma, questi segnali di... Certamente, da quello che abbiamo letto anche, abbiamo appreso anche dalle trasmissioni, anche stamane attraverso questo... due testimonianze che sono state raccolte dalla vostra emittente, e ci sono dei fenomeni molto più diffusi che evidentemente in una platea così ampia dimostrano l'infiltrarsi di fasce di, beh, non direi di corruttori, di fasce di vocazioni all'illecito, insomma, perché la cosa più avvilente non è constatare la regolarità apparente o sostanziale del concorso dal punto di vista della commissione, che mi pare non sia assolutamente in discussione, ma insomma la tendenza a frodare che caratterizza l'accesso, probabilmente per motivi di disperazione o per uno scadimento morale, che secondo me è un po' come è stato anche opportunamente detto dal presidente Violante, è un po' la caratteristica più deprimente di questa situazione. E allora noi ora del lunedì abbiamo ritenuto opportuno, proprio perché avevamo avuto queste segnalazioni interne da parte del Presidente, sì, della Commissione, di convocare tutti i componenti della Commissione. Però mi scusi, le segnalazioni della Commissione si riferiscono a queste, diciamo, 65 o espulsioni o qualche irregolarità? No, nelle segnalazioni della Commissione c'è anche il riferimento a quell'episodio di cui parlava la candidata Francesca quando ha parlato delle proteste del vociare. Le proteste vibranti. Ecco, sì. Senta, ci spieghi... Per la verità la dichiarazione della candidata Francesca mi pare una dichiarazione abbastanza precisa e abbastanza convincente. Sì. L'altra, quella più anonima, diciamo così, di quello che ha copiato, mi pare un po' più generalizzata. Sì, insomma, bisognerebbe andare a rintracciare se chi è, chi l'ha scritta, no, se questo, è vero. Questo avverrà poi in un momento successivo. Qual è la procedura che noi vogliamo e possiamo seguire? Ovviamente abbiamo un dovere di tutela della credibilità della Commissione, ma anche, come anche è stato detto dal Presidente Violante, è un dovere di non generalizzazione, perché sarebbe una generalizzazione a danno della stragrande maggioranza che poi ha lavorato bene, si è comportata correttamente, quindi ha maturato un'aspettativa di diritto ad essere giudicata, sì, correttamente. Ci spieghi che possibilità c'è, cioè che cosa bisognerebbe riscontrare per arrivare eventualmente all'annullamento del concorso, che insomma sarebbe la decisione. Accanto il materiale informativo di cui siamo in possesso, abbiamo anche una relazione del direttore generale del Ministero, che su questo punto ha dato anche delle indicazioni. No, noi non possiamo né arrivare ad annullare il concorso, né a, noi dobbiamo adesso intanto approfondire attraverso quest'ampia audizione dei componenti della Commissione lo stato delle cose e probabilmente intervenire, siccome poi le prove sono in corso, e intervenire per individuare fin dove è possibile, con l'aiuto dei componenti della Commissione, e tutte le fasce di illegalità che hanno caratterizzato episodi, come ad esempio quello del rinvenimento negli indumenti intimi di una addirittura candidata che era un vicequestore, insomma, di questi oggetti. Si parla anche di qualche sofisticato complesso oggetto informatico, sì, insomma, per cercare di copiare, insomma, ma staremo a vedere. Andiamo da due ascoltatori rapidamente. Alessio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti, saluto tutti, anche il presidente. Io parlo da disilluso, io ho 35 anni, faccio l'avvocato, sin dal 97 provai a fare i concorsi in magistratura. Però ho ascoltato adesso il programma, condivido anche la collega, perché anch'io sia ai tempi che adesso ritengo che il concorso di magistratura sia uno dei più seri. Però purtroppo ci sono stati scandali, cioè questo non è l'ultimo. Mi ricordo tempo fa il famoso scandalo delle fotocopie, sì, di una commissaria che venne, tra virgolette, beccata a fotocopiare un tema consegnato. Ma sì. Ma fu veramente un disastro. A tutto questo si aggiunge in realtà anche un'altra considerazione che volevo fare. Oramai le procedure sono borboniche, cioè anche la descrizione delle procedure, che è assolutamente limpida, dimostra che secondo me oramai ci vuole proprio un vero e proprio rinnovamento. Ma lei è un disilluso, insomma, ci ha rinunciato? Sì, no, io ho rinunciato, continuo a credere nella magistratura e nella forza della legge, però ritengo che debba essere fatto un vero colpo di spugna, intervenire severamente, perché altrimenti appunto ci rimette il sistema paese. Vabbè, come ha detto il presidente Violante, cioè dire un no fermo, insomma, se ci sono accertate queste irregolarità. Laura da Lucca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, io invece sono alla prima esperienza. È in la che prima senso? Volta appunto che faccio il concorso. Ah, lei era lì presente? Sì, ero presente, ecco, però a differenza dell'altra mia collega, io non ero nel padiglione MZ, mi trovavo nel padiglione AL. Ecco, quello che a me ha lasciato un po' perplessa il fatto che appunto da noi non sia stato detto niente, non abbiamo capito quello che stava succedendo nell'altro padiglione, e di conseguenza nessuno ha avuto modo nemmeno di guardarsi intorno e capire se appunto qualcuno dei nostri colleghi fosse in possesso di codici non regolari. A posteriori è difficile dire se effettivamente. Quindi lei era, ma nel padiglione in cui era lei, ha notato qualcosa, insomma? Io non ho potuto notare, no, perché ero illusa che i controlli fossero stati fatti correttamente, e siccome la commissione si trovava nel padiglione MZ, noi sentivamo solo ciò che veniva detto dal presidente al microfono. Ah, perfetto. Però non abbiamo capito. Non avete constatato, eravate nell'altro padiglione, ripeto, erano. Non è stato detto quello che. L'altro padiglione era in possesso di manuali o di codici. No, è stata chiarissima, Laura. La ringrazio. Tra poco torneremo anche dalla nostra Francesca, insomma, che ci sta raccontando. Presidente Violante, però, lei sul Riformista ieri ha detto: ma insomma, per almeno all'inizio non ha sentito grandi proteste, insomma, non so, sia anche dalla magistratura, dall'Associazione Nazionale Magistrati, dal mondo politico. Adesso sembra che qualcosa si stia muovendo. Ieri il ministro Alfano ha intervenuto molto duramente. Perché secondo lei inizialmente c'è stato un po' un tentennio, insomma? Devo dire, anche i mezzi di informazione non hanno, come dire, denunciato con immediatezza, mi pare soltanto il Riformista. Sì, è vero, prima, non con quel risalto che forse meritava. Sì. Sì. Poi altri giornali, oggi per esempio lo riportano molti quotidiani, voi state facendo questa trasmissione, quindi non so se sono altre cose, penso alla politica, alla crisi economica, quello che c'è a Mumbai, forse distratta da altre cose, però ho visto che l'altro giorno in Commissione Giustizia una parlamentare ha posto questo problema al ministro Alfano, il ministro Alfano ha detto che avrebbe risposto la prossima settimana una volta acquisite le relazioni, e questo è giusto. Ma insomma, io temo sempre un po' di passività nei confronti di queste cose. Lei prima accennava un rischio, quello della sofferenza, insomma, sono cose che succedono. No, queste cose non devono succedere, perché guardi, quando ci si mette su questo scivolo si sa come si comincia, non si sa dove si finisce, e poi diventa il regno degli imbroglioni e degli impostori. Questa cosa non è accettabile. E quindi io spero che ci sia una risposta, mi auguro, perché conosco la serietà del Ministro della Giustizia, mi auguro che ci sia una risposta molto ferma e molto dura. Il Consiglio Superiore, come ha detto con chiarezza l'Avvocato Sinescalchi, farà quello che deve fare, e poi, come dire, il Parlamento è bene che se ne occupi, anche impegnando il Ministro a una reazione particolarmente dura. Tendo presente, ripeto, che quei codici sono passati perché qualcuno consapevolmente li ha fatti passare. Certo. E questo, no, è interessante, lo chiederò tra poco a Siniscalchi, anche capire chi mette questo timbro. Prima però voglio tornare dalla nostra Francesca. Francesca, mi ha colpito altre testimonianze sul Riformista, appunto, ci sono state nei giorni scorsi, tutte abbastanza anonime. Per esempio sul Giornale una testimonianza ha detto: io ho dato il mio nome al ministro Alfano, però sono qui a scrivere al Giornale in maniera anonima. Anche lei, lo vogliamo ricordare, non si chiama, il suo vero nome non è Francesca, la chiamiamo così, lo fa in maniera anonima. Perché? Perché volete comunque riprovarci? Perché una cosa, denunciare uno scandalo del genere a viso aperto non conviene in questo paese, o perché cosa? Vabbè, in realtà innanzitutto crediamo che non sia rilevante farlo, dal momento che, cioè, io né tantomeno i colleghi che hanno parlato sulle altre testate non parliamo a titolo personale, cioè noi parliamo in qualità di candidati che ovviamente da anni seguono questa strada e che si sono sentiti traditi nel momento in cui hanno potuto apprezzare, ripeto, con i miei occhi, io ho visto due volumi dell'Enciclopedia del Diritto timbrati dal Ministero sui banchi di un ragazzo. Ma la commissione che ha fatto? Cioè, allora, in quel momento, non va lì a prenderli, a espellere il ragazzo? Allora, dal momento che se il materiale proibito viene rinvenuto prima della dettatura della traccia, il regolamento non prevede che il ragazzo che ha il materiale venga eliminato dalla prova. Perfetto, questo quindi, prima della dettatura, cioè gli viene sequestrato e basta. Esatto, quindi noi nel momento in cui il presidente è uscito fuori con la commissione, abbiamo proprio lì davanti a lui, abbiamo visto questi due volumi dell'Enciclopedia del Diritto e li abbiamo messi sul suo tavolo. A quel punto il presidente ha detto: chi ha materiale proibito venga a consegnarlo. Cioè, onestamente, noi siamo rimasti, cioè, un po' così, sorpresi, perché abbiamo pensato: ma come, chi ha materiale proibito? Cioè, è vidimato col timbro, non doveva entrare quel materiale. Il problema che io tengo a precisare, perché questo è il punto fondamentale di quello che è accaduto, non è il candidato che aveva nei pantaloni il fogliettino, il candidato che aveva... No, è chi aveva un codice sul banco, esatto, è chi aveva un codice vidimato col timbro. Noi dobbiamo rispettare il bando, che è la regola che disciplina il concorso, e come noi ci aspettiamo che lo rispetti ovviamente la commissione, che lo rispetti chiunque. Guardi, su questo è chiarissima, Francesca. Voglio tornare dall'avvocato Siniscalchi. Avvocato, il problema appunto è quello: non è tanto chi infila il bigliettino nel pantalone che lo può fare, ma chi doveva consegnare i volumi da presentare all'esame prima. Poi questi volumi vengono controllati, vidimati, timbrati e poi messo sul banco dei candidati. Allora, chi deve fare questa vidimazione, questo timbro? Chi è? Oltre la commissione, che se non sbaglio raggiunge il numero di ben 29 sì, magistrati, e vi è un complesso notevolissimo di funzionari, di agenti di polizia penitenziaria, eccetera. Ma ripeto, tutte queste cose, e noi vogliamo accertarle ascoltando con attenzione dalle 19 di lunedì in poi, di lunedì sera in poi, ascoltando io, ovviamente, i componenti della commissione, perché segnalazioni come queste che ascoltiamo comprensibilmente in via anonima, ma non è questo il punto, perché evidentemente corrisponderanno a dei dati reali, come risulta anche un po' a noi, e debbono essere però anche un po' sbagliate alla luce dei documenti che ci sono pervenuti. Io volevo dire una cosa, credo che qualcuno ha parlato del carattere antiquato della legge. Sì, barocco la definizione. Però va attribuita per la verità ad un regime savoiardo, non a quel regime, mi pare, borbonico, perché la legge di partenza è del 1925, sì, quindi quando non c'era televisione, quando non c'era informatica. E per la verità nei decreti poi che bandiscono i concorsi si fa riferimento a tutta una necessità di aggiornamento dei modi di intercettazione, diciamo, di queste furbizie, di queste frodi, come le vogliamo chiamare, ma è indubbiamente un punto, ma anche truffe, perché sicuramente insomma, truffare. Io condivido, come essendo stato per alcuni anni anche parlamentare, è quello della necessità di un'attrezzatura legislativa, normativa un po' più adeguata ai No, ma su questo non c'è dubbio. Guardi, l'esame di giornalista, come forse lo sa, per anni si è fatto fino dall'ultima prova, si è cambiato, ma si può usare il computer. Beh, tra l'altro la prima prova è stata anche abbastanza disastrosa, con computer difettosi. Vabbè, ma fino a un anno fa, insomma, si doveva usare la macchina da scrivere, e che, per carità, bellissimo strumento, però magari insomma bisogna anche un po' aggiornare appunto questi concorsi. Allora, io vado a dare le informazioni sul traffico. Intanto voglio salutare l'avvocato Pierpaolo Berardi, che ci spiegherà qualcosa nell'ultima parte. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Allora, Francesca, lei è una disillusa, come diceva l'ascoltatore prima, oppure no? No, assolutamente no. Cioè, ci riproverà se non lo passerà, perché lei ha consegnato poi... Sì, se fossimo disillusi non saremmo qui a fare questa lotta. La nostra reazione è dovuta al fatto che queste cose non si sono mai verificate, e a differenza di quello che lui sostiene con riferimento all'episodio del 2002, eccetera, cioè non si pone il paragone, perché in questo caso è stata la procedura che è stata ad essere viziata, cioè è stata quella che a noi ci ha lasciati spiazzati. La questione che le regole che tutti rispettano in sede di concorso sono state palesemente violate, e non c'è stata una reazione da parte, purtroppo, da parte della commissione, cioè non c'è stata una reazione ferma, e alla fine il presidente ha promesso, nel momento in cui noi protestavamo, ha promesso che avrebbe nuovamente effettuato i controlli durante lo svolgimento della prova, avrebbe rieffettuato i controlli dei codici dei candidati. Ovviamente questo non è avvenuto, tant'è vero che poi si sono verificate tutte quelle storie che ormai conosciamo benissimo, di gente che ha copiato da codici commentati altrui, eccetera eccetera. Cioè, in ogni caso, quello che io mi sento di dire è che comunque i ragazzi che stanno lottando per proprio che questo concorso... Ma lei vorrebbe l'annullamento, sostanzialmente, dovrebbe essere annullato. Sì, perché comunque vorremmo dimostrare a noi stessi, ma anche agli altri, che questo concorso è pulito, perché noi lo sappiamo che è pulito il concorso di magistratura, però se nessuno interviene nel momento in cui ci sono prove così evidenti, allora non lo so, cioè non sappiamo più nemmeno noi cosa pensare, perché sappiamo benissimo che questo concorso è sempre stato corretto, perché lo sappiamo da ovviamente testimonianze personali, non per sentito dire. Cioè, io conosco benissimo i colleghi che hanno superato il precedente concorso, cioè conosco benissimo queste procedure da mia esperienza, sì. Mi sento proprio di metterci la mano sul fuoco, però questa volta qualcosa deve succedere. Adesso lo vedremo, insomma, se succederà. Da lunedì il CSM esaminerà la situazione e poi insomma il ministro prenderà una decisione. Andiamo a Napoli da Lucia. Lucia, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io ho ascoltato attentamente sì. L'intervento del presidente della nona commissione. Non è il presidente, ma un membro della nona commissione. Perfetto, perfetto. Volevo chiedere come farà a distinguere i compiti che sono stati svolti correttamente e quelli che invece sono stati redatti con l'ausilio di questo materiale illegittimo. Come possiamo in questo senso sentirci tutelati? Glielo chiediamo, anche se non credo che insomma il CSM ora esaminerà i compiti. Il primo compito sarà, se ne scalchi, sentire la commissione e capire che cosa è successo. Esatto. Però poi, mi scusi, il metro di quello che è successo glielo dirà e ve lo diranno solo i commissari, voglio dire. Cioè, tutte queste denunce che ci sono sui blog, su internet, il CSM ne deve tener conto dal punto di vista delle procedure, oppure conta solo quello che la commissione vi verrà a dire? Ma io credo che è importante sottolineare che il CSM agisce nella misura in cui è al Consiglio Superiore della Magistratura è riferito il compito di nominare la commissione, ma poi tutto lo svolgimento effettivo delle prove il CSM, in particolare la nona commissione, su questo punto agirà in una interlocuzione col Ministero, perché poi è il Ministero che fa il bando di concorso. No, questo sì, però voglio dire, non è che voi potrete tener conto degli sfoghi sul forum di Saranno Magistrati. No, teniamo conto, non solo, ovviamente non degli sfoghi così che sono importanti, ma non dal punto di vista della campo di indagine che vogliamo perseguire. Teniamo conto di alcune segnalazioni di fatto e vogliamo verificare attraverso i verbali della Commissione, il contributo della Commissione. Io le ho detto e ripeto che tutte queste cose sono state anticipate da puntuali tre rapporti che sono stati fatti dal Presidente della Commissione. È di questo che dobbiamo parlare per raccogliere il materiale e poi, come lei ha detto correttamente, il compito di stabilire cosa l'annullamento e non annullamento non è assolutamente né della Commissione e né però le chiedo, mi perdoni avvocato, perché insomma Violante è stato per esempio chiaro dicendo secondo me bisognerebbe annullare, cioè se la Commissione, ipotizziamo, se venissero da voi e vi dicessero ci sono state 65 espulsi, c'è stata qualche protesta, ma insomma tutto si è svolto secondo noi nella regolarità, voi prendete atto di questa situazione? No, certamente non prendiamo atto solo dell'opinione, chiederemo anche passando in rassegna questi elementi, magari non di carattere anonimo ma anche quelli di carattere anonimo, perché possono far parte di una discussione che ci impedisce di mettere la testa sotto la sabbia come lo struzzo. Questo mi pare evidente, il problema non è l'anonimo o meno, e chiederemo se questi fatti specifici corrispondono ad una constatazione che è stata fatta dai componenti della Commissione. Presidente Violante, poi vorrei ricordare che in ogni caso poi su tutta la valutazione che adesso verrà avviata, cioè quella dei compiti, come dice giustamente sempre la candidata Francesca, non sarebbe giusto poi travolgere la stragrande maggioranza dei partecipanti onesti a questo concorso. No, ma su questo, e poi questo c'è il rimedio vista, del sì. ricorso amministrativo, naturalmente, per i singoli casi. Presidente Violante, abbiamo 20 secondi per chiudere. Lei ha detto andrebbe secondo me annullato, però insomma si passa attraverso questa strettoia per cui la voce della Commissione sarà quella abbastanza vincolante, insomma, no? Beh, innanzitutto questo compito credo che spetti, ha ragione l'avvocato Siniscalchi, che spetta al governo, al ministro, si vedrà anche come andrà il rapporto col Parlamento su questa vicenda. Io insisto che se ci sono state abusi, errori e, ripeto, effetti di corruzione di questa dimensione, il concorso va annullato, bisogna tutelare la credibilità dell'istituzione giudiziaria. E ci fermiamo qui, ringraziando tutti, staremo a vedere a partire da lunedì, quando alle 19 il CSM ascolterà la Commissione, poi vedremo gli sviluppi successivi. Ringrazio tutti per essere intervenuti, in redazione Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli e Carmelo Lauricella in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo puntuali lunedì mattina. Viva Voce.